America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Are Republicans in Congress really willing to let these cuts fall on our kids' schools and mental health care just to protect tax loopholes for corporate jet owners? Il presidente Barack Obama, che lancia un ultimo appello direttamente al grande pubblico americano per evitare il sequester, un termine che suona un po' sinistro e in effetti lo è, perché il sequester è quel meccanismo che prevede tagli automatici della spesa pubblica americana, dei tagli indiscriminati per 85 miliardi di dollari nel 2013. È uno sviluppo che in teoria avrebbe dovuto preoccupare gli analisti, i mercati. Sono settimane che ne parliamo dicendo che questo potrebbe frenare la crescita dell'economia americana. Lo stesso Ben Bernanke si era preoccupato da questi sviluppi, aveva incoraggiato il Parlamento a procedere verso una rapida soluzione. In realtà la cosa che mi ha colpito, pensate, è che proprio nel giorno in cui abbiamo appreso che quasi sicuramente si andrà avanti con questi tagli automatici, perché la partita poi è politica, quindi sia repubblicani che democratici resistono, la borsa è salita dell'1,26%. O meglio, l'indice Dow Jones è salito dell'1,26%, il Nasdaq dell'1,4%, l'S&P 500 dell'1,27%. Insomma, sembra quasi che la borsa festeggi. C'è da chiedersi perché il presidente Obama, nella dichiarazione che vi ho fatto sentire, aveva lanciato una provocazione piuttosto dura, allarmante, perché ha detto: i repubblicani sono davvero disposti a lasciare che questi tagli cadano sulle scuole dei nostri figli, sui centri di salute mentale, tutto per proteggere le deduzioni fiscali di chi possiede un corporate jet? Sono davvero disposti a tagliare le spese per i nostri militari, le pattuglie di frontiera, solo perché si rifiutano ad eliminare le agevolazioni fiscali per le grandi compagnie petrolifere? Sono davvero preparati a chiedere ulteriori sacrifici alla classe media perché si rifiutano di chiedere un po' di più ai ricchissimi? Ecco, da questo linguaggio capite subito che la partita, come vi ho accennato, è politica, non è economica. Sia Barack Obama che i repubblicani hanno in mente davanti a loro le elezioni del 2014, le elezioni dell'anno prossimo, che rinnoveranno la Camera e un terzo del Senato. Sono le elezioni di metà mandato, elezioni molto importanti. Barack Obama vuole portare all'estremo quello che è stato il suo messaggio nella campagna elettorale dell'anno scorso per stringere nell'angolo i repubblicani, metterli in difficoltà, lasciarli con il cerino in mano. Cioè dice: siete voi che avete creato questi problemi. E i repubblicani però si difendono. You know, the president proposed this sequester, yet he's far more interested in holding campaign rallies than he is in urging his Senate Democrats actually pass a plan. John Boehner, il presidente della Camera, con una risposta diretta per Barack Obama e dice: il sequester è stata un'idea di Obama, eppure lui è più interessato a fare comizi elettorali che spingere i senatori democratici a far passare un nuovo piano. Sappiamo tutti che ci sono modi migliori per tagliare la spesa pubblica e per continuare sulla strada della crescita economica. Questo è il motivo per cui noi repubblicani abbiamo proposto già due piani per sostituire il sequester con tagli alla spesa più ragionati. Bisogna dire che i repubblicani stanno giocando una partita molto sottile. I repubblicani si sono trovati in difficoltà dopo la vittoria di Obama, hanno chiaramente dimostrato di non avere una base politica molto forte, devono recuperare. E dunque come lo fanno? Beh, lo hanno fatto giocando d'anticipo, perché quando 18 mesi fa Barack Obama in effetti propose questa idea di imporre dei tagli automatici se non ci fosse stato un accordo fra i partiti per procedere con delle riduzioni di spesa scelte, diciamo, di comune accordo, e confidava su un punto molto importante, che quasi la metà di questi tagli, cioè 43 miliardi di dollari su 85, sarebbero stati dedotti dal Pentagono. E contava sul fatto che i repubblicani non avrebbero mai accettato questa cosa e quindi in qualche modo sarebbero venuti a Canossa, avrebbero fatto un compromesso. La novità? La novità è che i repubblicani invece, nel momento in cui la guerra in Iraq è finita, fra poco le truppe tornano a casa dall'Afghanistan, hanno detto: benissimo, andiamo pure avanti con questi tagli alla spesa del Pentagono. E questo ha preso in contropiede l'amministrazione Obama, che non se lo aspettava. L'impatto sarà forte. Prendiamo la Virginia. In Virginia ci sono delle basi navali piuttosto importanti. La base di Norfolk è la più grande base navale americana e una base navale che dà lavoro a decine, a centinaia di piccole e medie aziende e che occupa decine di migliaia di persone. L'impatto diretto e indiretto dei tagli automatici che ricadranno soltanto sulla Virginia settentrionale produrrà 200.000 disoccupati. Si calcola che ci siano addirittura tra i 300 e i 400.000 disoccupati soltanto quest'anno per via di questi tagli alla spesa. I think an appropriate balance would be to introduce these cuts more gradually and to compensate with larger and more sustained cuts in the longer run to address our long run fiscal issues. Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, ha parlato ieri per la sua seconda audizione semestrale al Congresso e ha affrontato ovviamente l'argomento caldo del giorno. Ha detto, parlando di tagli alla spesa, sarebbe molto meglio procedere con tagli in modo graduale nel breve medio termine e compensare con tagli più sostanziali nel lungo termine per risolvere il problema del debito. Sono già stati fatti progressi, ma il problema resta nel lungo termine. Io mi auguro che le parti riescano a trovare un accordo. Ecco, le parti l'accordo non lo troveranno. Barack Obama ha convocato per domani alla Casa Bianca la leadership repubblicana e democratica per un tentativo dell'ultima ora, ma non c'è nessuno che crede che si possa davvero raggiungere un compromesso. E dunque chiudiamo il cerchio con la borsa. Se da una parte sono tutti così preoccupati, c'è questo rischio per nuovi disoccupati, si calcola che l'impatto negativo sulla crescita americana possa essere dello 0,5%, uno studio del Dipartimento del Budget Committee pensa addirittura dello 0,6%, come mai la borsa sale? Beh, devo dire, ho fatto un po' di telefonate ieri con operatori di borsa, con investitori a Wall Street e ho avuto delle risposte molto interessanti. Le posso riassumere in tre punti. La prima, intanto questi tagli saranno molto graduali, saranno dei tagli che avverranno a partire da domani e poi gradualmente fino alla fine dell'anno. Dunque l'impatto sull'economia reale sarà molto più contenuto di quello che, diciamo, fa temere Barack Obama all'opinione pubblica. Secondo punto. La borsa non è scontenta, la comunità degli affari non è scontenta che ci sia uno spostamento, diciamo così, del balance politico dallo Stato al privato. Se si riduce la spesa pubblica è meglio. Ultimo punto, nel momento in cui l'opinione pubblica invece comincerà a soffrire di questi tagli, proprio per quello che ci ha detto all'inizio il presidente Barack Obama, ci saranno delle reazioni e chissà, forse a quel punto le parti politiche saranno davvero costrette a trovare un compromesso e dunque questi tagli drastici, indiscriminati, che porteranno sicuramente dei disagi per il cittadino americano, chissà, magari alla fine saranno superati in tempi utili. Comunque la realtà è che la borsa per ora festeggia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il nuovo album in arrivo per Lana Del Rey, che ha definito questo suo ultimo lavoro più spirituale del suo primo disco. Oltre al disco la cantante è stata impegnata nella lavorazione della colonna sonora del film Il Grande Gatsby con Leonardo DiCaprio, che uscirà l'estate prossima. Lana Del Rey, Blue Jeans. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!